Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 420, nella quale parleremo di incubi di Darwin, rivoluzioni prêt-à-porter, super mucche e prigionieri acquatici. Speriamo di avervi incuriositi. L'isteria collettiva verso quello che si sposta e migra non risparmia neppure animali e piante. Dal 14 febbraio, giorno di San Valentino, con l'approvazione di un regolamento attuativo, entra in vigore in Italia una legge europea del 2014, discussa e votata a Bruxelles nel silenzio generale, per prevenire e gestire le specie aliene, considerate particolarmente invasive dall'Unione Europea. Si tratta di piante, animali e altri organismi introdotti dall'uomo accidentalmente o volontariamente al di fuori della loro area di origine. Attualmente si stima che siano 12.000 le specie aliene introdotte dall'uomo e dai processi di globalizzazione in Europa, di cui più di 3.000 solo in Italia, con un incremento vertiginoso, pensate, del 96% negli ultimi 30 anni. Noi chiediamo ad Antonio De Marco, ricercatore, biologo, evoluzionista e fondatore del rifugio faunistico Piano dell'Abatino in provincia di Rieti, un parere sui nuovi scenari che ci possiamo aspettare. Per quanto riguarda la minaccia alla biodiversità, credo che sia un dato un po' assodato che le cosiddette specie invasive aliene possono costituire una minaccia, ma non possono essere messe tra gli elementi che maggiormente stanno minacciando la biodiversità. Parliamo dell'inquinamento, delle variazioni climatiche, della distruzione degli habitat, insomma tantissime cose, e poi possiamo anche per certe situazioni far riferimento anche a alcune specie invasive. Quello che non è accettabile comunque, che io mi sento anzi di dire proprio che rifiuto, è che parlando delle specie invasive si debba aggiungere l'elemento alieno, perché una specie invasiva può essere invasiva sia che sia aliena sia che non lo sia, e quindi è ingiustificato che all'opinione pubblica arriva l'idea che la specie invasiva lo è essenzialmente perché è aliena. In realtà noi sappiamo che esistono in letteratura molti esempi di situazioni di una specie invasiva che in un determinato contesto assume le caratteristiche di specie invasiva, e questo ha riguardato, la letteratura è piena di questi esempi, sia specie autoctone che specie che possono essere, diciamo, non autoctone o sono state trasportate dall'uomo provenendo da altre zone. Ma anche perché in biologia è veramente sbagliato tingere i colori di bianco e di nero lì dove è un continuo grigio, è un continuo variare, e fare una cosiddetta lista diventa quasi una lista di proscrizione, questa, che non ha, secondo me, una base scientifica reale. al 90% i dati che riguardano le estinzioni e quindi la minaccia di estinzioni delle specie autoctone da parte delle specie aliene invasive, questi dati sono ricavati da analisi, da studi fatti su piccole isole, dalle piccole isole, in termini sia geografici ma anche in termini ecologici, dove chiaramente l'introduzione di un predatore può determinare un'alterazione di quella comunità biologica. Anche l'introduzione in alcuni casi di un gatto, delle capre, possono determinare delle alterazioni su ambienti più vasti. Quindi al di fuori di questo contesto non esiste una letteratura scientifica ugualmente chiara. Abbiamo degli esempi in cui le cosiddette specie aliene invasive hanno costituito un problema, ma abbiamo altrettanti esempi in cui le cosiddette specie invasive, o le specie aliene in ogni caso, hanno costituito un arricchimento della biodiversità e non un suo impoverimento. Questo è almeno quello che risulta a me. Mi pare però che il regolamento, così come è formulato e così come viene applicato, accentui posizioni che proprio per la loro rigidità e per l'avere sposato solo una delle possibili interpretazioni o delle letture di quello che sta succedendo nei nostri ambienti non sia accettabile. Non esiste una specie che è perfettamente adattata al suo ambiente, perché altrimenti non esisterebbe l'evoluzione. L'evoluzione è un continuo cambiamento di specie che sono in un continuo equilibrio instabile e se sono soggetti a continue modifiche, una coperta fatta di tanti pezzi. Questi pezzi vengono continuamente strappati e vengono continuamente ricuciti. Un fondamentalismo conservazionista, come definisci, tenderebbe a immaginare che questa coperta venga sempre ricucita e ricostruita allo stesso modo. Non è questo che avviene in natura e nei processi evolutivi. La coperta viene sempre ricucita in modo differente. Noi stiamo in un periodo in cui l'incremento della popolazione umana, la specie più invasiva se vuoi, la massiccia presenza in tutti gli ambienti deve portarci ad immaginare nuovi ecosistemi in cui conviveranno e devono convivere le specie cosiddette autoctone con le specie aliene. Questo è quello che ci si prospetta, piaccia o non piaccia secondo me. Poi se qualcuno vuole ancorarsi a un passato che non c'è più e vuole pensare che la coperta venga sempre ricucita allo stesso modo, secondo me si colloca fuori da una visione evolutiva dei processi, dei cambiamenti degli ecosistemi. If it makes you happy. Anticontrabbando della polizia messicana di Jalisco a evitare il peggio. Gli ispettori doganali hanno trovato all'interno di un pacco postale un cucciolo di tigre. Sedato, viaggiava all'interno di un contenitore di plastica destinato a una cittadina dello stato centrale di Querétaro, senza acqua e senza cibo. Il tigrotto era disidratato, ma stava tutto sommato bene ed è stato affidato alle cure dei veterinari del locale centro di animali esotici. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per maltrattamento di animali, ma di fatto a quel cucciolo è stato negato di crescere con la sua mamma, che era l'unica cosa di cui avrebbe avuto davvero bisogno e, diciamo anche, diritto. Chiama Super Vacca ed è l'ultimo progetto del padre di Microsoft e filantropo Bill Gates per aiutare le popolazioni svantaggiate del continente nero. Un programma dal costo di 40 milioni di dollari per la selezione di una nuova razza di mucca capace di sopportare i caldi estremi dell'Africa e di produrre latte quanto i bovini europei. Attraverso la fondazione Bill e Melinda Gates, il magnate ha investito 40 milioni di dollari in un ente senza scopo di lucro specializzato in genetica e farmacologia animale con sede a Edimburgo in Scozia. Con questo progetto si proverà, grazie all'ingegneria genetica, a incrociare bovini britannici e africani per ottenere soggetti in grado di produrre più latte in condizioni climatiche molto ostiche. Un esemplare di specie britannica, Holstein, produce mediamente 19 litri di latte al giorno, mentre le vacche africane sono in grado di produrne poco più di 1,6 litri, riuscendo tuttavia a sopravvivere al caldo estremo, alle avversità meteorologiche e mangiando molto meno degli esemplari europei. L'obiettivo della vacca Frankenstein è migliorare le condizioni di vita delle popolazioni povere, ottenendo una mucca 4 volte più produttiva ma con la stessa capacità di sopravvivenza. Ora, con tutta la solidarietà possibile per chi vive al limite della sussistenza, troviamo che la soluzione all'estrema povertà non possa essere rappresentata da una mucca Frankenstein geneticamente modificata. Intanto forse dovremmo sentire cosa hanno da dire, da chiedere i poveri in questione, perché forse Bill Gates non è il loro portavoce più credibile. La supermucca invece sembra proprio una buona metafora della mercificazione del vivente. In una società proiettata verso la competitività e la redditività, certo non c'è motivo per cui le mucche possano sottrarsi a questa corsa. Il tasso di produttività del loro latte, il tasso percentuale delle loro carni commestibili, la loro resistenza alle malattie, alla fatica, la stessa longevità, insomma, queste super mucche dovranno essere un affare, altrimenti la loro vita non ha senso che esista. E mentre questi poveri corpi martoriati viaggeranno dalla Scozia all'Africa, noi, mediocri utilizzatori dei sistemi operativi Microsoft, ci attrezzeremo a nostra volta per superare i nostri limiti e per non rischiare di venire bollati come improduttivi e magari rimpiazzati da dei subumani clonati con qualche facoltà critica in meno, ma qualche predisposizione alla fatica in più. Uno scenario tutt'altro che fantascientifico, alla luce soprattutto della recente clonazione avvenuta in Cina dei primi 2 primati non umani destinati alla sperimentazione scientifica. Meditate, gente, meditate. La musica della puntata di oggi è dedicata interamente a un animale che non riscuote un grande successo. Parliamo del corvo. E, come capita spesso, lo decliniamo tra testi e autori, per cui Black Crow, Sheryl Crow, Counting Crow, ma anche la colonna sonora del film The Crow. In italiano invece abbiamo Il Corvo Torvo di Vinicio, ma il brano su cui focalizziamo la nostra attenzione è De Baustelle dell'album La Malavita, Il Corvo Gio, che a detta di Francesco Bianconi esiste veramente ed è un corvo che era rimasto zoppo e che è stato addomesticato dai barboni dei giardini di Milano. Un testo interessante che ve lo propongo per scoprirlo o per riascoltarlo. Gente luccica mentre osserva le anatre inventandosi la felicità. La sorvolo e capisco che maledice la mia diversità. Ma nel parco ci abito, è la vita mia, esser simbolo di paura e di morte. Sono tenebre i miei abiti, i bambini sorridono, mamma guardalo che bestiaccia è. Gli alberi mi consolano, apro le ali e resto immobile. Studenti li evito, preferisco le ricche vedove con gli anelli di platino. Sono un ladro ma fine gentleman. Io sono il corvo giù. Abbiamo proposto un piccolo approfondimento sulla questione delle microplastiche e abbiamo suggerito una riflessione individuale, o se preferite anche un bel dibattito collettivo, sullo stretto legame che esiste tra animali e ambiente. Spesso si pensa che aiutare gli animali venga prima o in alternativa a questioni di tipo ambientale come i rifiuti o l'inquinamento, ma le due cose sono saldamente inscindibili. E visto che l'ambiente e le scelte etiche sono le due grandissime assenti dalla campagna elettorale in corso in Italia, a proposito di scelte quotidiane e di piccole rivoluzioni possibili, per rimanere realisti e fare qualcosa qui e ora, che poi è sempre stato il principio del movimento per il consumo critico, noi oggi vi parliamo di un libro intitolato Vegan Revolution, grazie all'ennesimo ottimo servizio della nostra munifica corrispondente da Milano, Roberta Marino. Sono in compagnia di Beatrice Di Cesare, che è autrice del libro Vegan Revolution, edito da Terra Nuova e scritto a quattro mani insieme ad Alfredo Meschi. Come è strutturato questo libro? E c'è una piccola parte introduttiva dove spieghiamo il perché abbiamo scelto di scrivere questo libro, e poi c'è la parte di Alfredo che è più incentrata sulle forme possibili di attivismo. Tra le tante c'è l'artivismo, quindi l'utilizzo dell'arte come forma di attivismo, che è quello che sta facendo Alfredo con le sue 40.000 X. E invece a me ha chiesto di raccontare scelte di vita quotidiana in ottica antispecista, quindi allargata rispetto alla scelta vegana. In questo libro viene data, diciamo, per scontata. Cerchiamo di andare un pochino oltre. Sulla falsa riga del titolo stesso del libro, se effettivamente essere vegani è la rivoluzione ed è, come dire, la rivoluzione finale, cioè il punto d'arrivo. Ecco, per me è un passaggio, diciamo, è fondamentale, imprescindibile ma non sufficiente, perché se essere vegani è solo escludere dalla propria vita prodotti di origine animale, ci sono tante altre cose che danneggiano gli altri animali, umani e non umani, anche nelle scelte teoricamente vegane. La mia parte del libro è la scelta di non produrre rifiuti, arriva dalle filmati che ho visto che raccontavano in immagini tutti gli animali che stanno morendo in questo momento nei mari a causa della plastica. Sei vegano ma stai comprando tutto implasticato e purtroppo non sai che fine farà quella plastica, perché non sai che fine faranno, molti rifiuti venivano mandati in Cina, adesso la Cina ha chiuso le porte, magari i tuoi rifiuti venivano smistati da qualcuno schiavizzato dall'altra parte del mondo, oppure appunto finivano in mare per qualche gioco, magari anche solo economico, qualche magagna da qualche parte. Quindi diciamo il miglior rifiuto è quello non prodotto. Se sto comprando dei pomodori che sono vegani ma sono stati prodotti con schiavizzazione di esseri umani, non sono comunque dei pomodori antispecisti. Parliamo per esempio della cosa più banale, che è l'abbigliamento. I vegani spesso appunto sono costretti a ricorrere al sintetico. Tutto quello che è sintetico poi rilascia ogni volta che viene lavato delle microplastiche nel mare. L'idea sicuramente è averne pochi, ok? Usiamo il 20% delle cose nel nostro guardaroba da questa parte del mondo, quindi incominciare a tenersi solo il 20%. Li si rimette in circolo e ovviamente se lo facessero anche gli altri, quegli stessi abiti basterebbero per molto più tempo invece che stare lì a prendere polvere nell'armadio. Quello che sto facendo io, che ho tantissimi vestiti di recupero, è cercare di lavarli in maniera diversa. Comprare dei maglioni di cotone potrebbe essere una buona idea, di cotone canapa, probabilmente il bambù che almeno cresce più facilmente eccetera, però anche lì provare intanto a cercare nel mercato dell'usato quando è possibile, se lo si compra nuovo comprarlo comunque biologico eccetera, però lo stesso è non averne 100, perché rimane che l'impatto anche sugli animali che stiamo cercando di proteggere è altissimo ad ogni cosa nuova. Quindi la mia scelta è o poter comprare qualcosa che è un seme per il futuro o mettere una toppa a quello che già esiste, quindi utilizzare l'usato. Aggrappato tra la luna e la luce che consuma, spia dal lucernario il quadro obliquo dell'orario. Corvo ingordo, abituato alle camelie, al profumo dei cassetti, al riflesso degli specchi. È il momento della nostra rubrica settimanale dedicata alla cucina cruelty free, il pasto gentile, curata da Gabriele Palloni, autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton, che potete trovare in libreria o ordinare via internet. Sentiamo l'audio ricetta che ci propone questa settimana il nostro tosco vegan chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Cioè, rivoluzione e rivoluzione. E quella che mi sento di abbracciare e promuovere è quella che nasce da un'idea non violenta. Anche semplicemente scegliendo cosa mettere nel carrello della spesa e successivamente nel piatto, possiamo contribuire ad una rivoluzione non violenta e antispecista. Quindi, con un gioco di parole e un tributo ai giganti che nel 1967 portarono a Sanremo la canzone Proposta, facendo proprio uno slogan del movimento pacifista, entriamo in cucina cantando mettete dei fiori nei vostri cannoli. Gli ingredienti per 4 persone per i cannoli salati con mousse alla zucca sono: per la pasta 50 g di farina tipo 0, 10 g di olio extravergine di oliva, 10 g di farina di ceci, un pizzico di sale, mezzo cucchiaio di vino bianco, mezzo cucchiaio di aceto di mele, olio di semi di arachidi. Per la mousse 150 g di tofu o ricotta di soia, 100 g di panna di soia, 100 g di polpa di zucca e 100 g di patate. sale e pepe. Infine fiori eduli e semimisti per decorare. Iniziate preparando la pasta per realizzare il guscio del cannolo. Setacciate la farina di frumento e quella di ceci, quindi impastate con l'olio, il pizzico di sale, il vino bianco e l'aceto, fino ad ottenere un impasto liscio e compatto che farete riposare per un'ora in frigorifero avvolto nella pellicola. Nel frattempo lessate le patate, sbucciatele e schiacciate con l'apposito strumento o con due forchette. Tagliate la polpa della zucca a fette, conditela con olio, sale e pepe, quindi fate cuocere per 25 minuti in forno a 180 gradi e lasciate raffreddare. Una volta ben riposata, stendete la pasta in una sfoglia molto sottile. Con un coppapasta ricavate dei dischi di 10 cm di diametro. Spennellate di olio gli appositi cilindri di metallo per cannoli, avvolgete ogni disco su un cilindro e sigillate inumidendo con acqua i bordi, premendo bene affinché non si aprano in cottura. Friggete in abbondante olio ben caldo e quando si saranno dorati togliete dall'olio, estraete il cilindro facendo attenzione a non scottarvi e fate asciugare su carta per frittura. Se si preferisce un cannolo più leggero lo si può cuocere in forno ventilato a 180 gradi per circa 15 minuti. Unite la ricotta, la zucca e la panna e fate lavorare con il mixer fino ad ottenere una bella crema liscia. Aggiungete le patate schiacciate e lavorate a mano con una frusta aggiustando di sale. Lasciate riposare mezz'ora in frigorifero. Con una sac à poche farcite i cannoli con la mousse fino all'estremità. Servite senza far trascorrere troppo tempo affinché la pasta del cannolo non venga ammorbidita dalla farcia. Decorate con fiori eduli e semi vari tostati. E ricordiamo che nel nostro blog www.restiamoanimali.it potete trovare in audio ma anche in forma di testo scritto circa 180 ricette cruelty free. Basta digitare nell'apposito campo di ricerca il titolo della rubrica Il pasto gentile. Stare at this yellow-haired girl, Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. A seguito di una visita presso l'acquario di Genova, un parlamentare animalista ha presentato una interrogazione ai ministri competenti, sottolineando che la struttura ha beneficiato di fondi pubblici. Il parlamentare ha denunciato la presenza di vasche tattili, in cui diverse specie di razze sono sottoposte al continuo disturbo umano. Si tratta di vasche con acqua bassa, dove chiunque può toccare le razze ferme sul fondo. Per questi animali significa un tormento continuo, un disturbo che non finisce lì, ma che è costante in tutta la struttura nei confronti di molte specie. È un continuo urlare e correre di bambini che non esitano a picchiare sui vetri e a fotografare con i flash, con una sedicente informazione didattico-divulgativa misera e scarsamente di attrazione per chiunque. Non solo è necessario intervenire subito su questi aspetti urgentissimi, ma bisogna anche ribadire che è ora di smettere di rinchiudere creature viventi in vasche che mai potranno riprodurre il loro habitat naturale. E per prepararci a questo superamento è indispensabile evitare che altri innocenti nascano in queste strutture. Non solo è anacronistico e privo di qualunque valore scientifico ed educativo, ma diventa ancora più assurdo se pensiamo che Genova si affaccia sul santuario dei cetacei. In chiusura, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 421 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.